A partire dal 1990, cioè da quando c'è la legge 185 che vincola la Presidenza del Consiglio a riferire al Parlamento ogni anno l'andamento dell'importazione e delle esportazioni delle armi, dunque da quell'anno è possibile avere dei dati più precisi, più attenti e più chiari. Dal 99 abbiamo deciso non solo di ragionare sulle importazioni e esportazioni, ma anche di ragionare sul ruolo che hanno le banche in questo commercio. La lettera che noi invitavamo a inviare ai direttori delle banche diceva, tra l'altro: ritengo che l'attività economica finanziaria non possa sottovalutare il suo impatto sui diritti umani. Banche e imprese dovrebbero considerare le conseguenze sociali ed etiche delle loro azioni economiche. Da questo punto di vista, il commercio delle armi continua a alimentare guerre e violazioni dei diritti umani in tutto il mondo. Questa operazione è andata avanti, appunto, 2000, anche quest'anno continua. Abbiamo avuto banche che sono anche abbastanza incavolate, ma altre che hanno deciso di prendere in considerazione quello che noi dicevamo, e non credo che l'abbiano fatto per una questione, diciamo, semplicemente di riconversione così dei loro affari, ma anche perché evidentemente le nostre sollecitazioni avranno portato a discussioni con clienti che andavano lì a chiedere conto, eccetera, eccetera. Le banche si sono sempre difese dicendo che loro hanno un ruolo marginale, cioè fanno transitare sui loro conti delle operazioni, eccetera. Ma noi dicevamo: se voi uscite da quel business lì, magari avvengono delle cose anche nell'ambito del commercio delle armi sui quali si può ragionare. Allora, il Monte dei Paschi di Siena si è impegnato in questa direzione e nel 2003 infatti ha quasi azzerato le proprie operazioni. Unicredit si era ufficialmente impegnata a fare anche lei questa operazione, però avendo un sacco di contratti in essere si smaltiscono con calma. La Cassa di Risparmio di Firenze, anche questa era uscita praticamente dalla lista delle banche che avevano questo tipo di rapporto, e adesso c'è un abboccamento, diciamo, con Banca Intesa, che sembrerebbe orientata a disimpegnarsi anche lei da questo campo. Insomma, quando l'opinione pubblica, parlo di qualche migliaio di cittadini, si mobilitano per chiedere conto di qualcosa e il tema del business e dei soldi entra nei particolari, anche lì i funzionari delle banche e le politiche delle banche possono essere influenzate, e comunque è, credo, doveroso per un giornale entrare nel merito delle informazioni che una legge dello Stato prevede siano rese note al Parlamento. Sono una delle tante informazioni che arrivano al Parlamento e che noi con altri ci preoccupiamo di divulgare e di far diventare dibattito pubblico.